Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci! Venerdì, Oscar! Venerdì, domani è sabato. Domani è sabato. Poi c'è anche domenica. Sì, poi sì, sì. Allora, in questo venerdì 24 di febbraio devi sapere... È uno dei tanti re santi, insomma, voglio dire, la Chiesa aveva dei problemi politici, metteva delle bandierine, insomma, qui stiamo parlando del primo santo re degli angli cristiani, quindi un re del Kent nel VI secolo, e quindi diventare, e però si espandeva l'espansione del cristianesimo verso il nord Europa e nelle isole britanniche. Tra gli altri santi del giorno anche Sant'Avezio di Nicomedia, che coraggiosamente, quando andò nel foro della sua città, Nicomedia appunto, nell'Asia Minore, vide l'editto che era appena stato pubblicato di Diocleziano, pensò bene di strapparlo, e a lui strapparono purtroppo tutti gli arti. Questa è la sua storia, è una storia un po' terribile, per così dire. In questo giorno, nel 1208, ho sentito un brano del Vangelo di Matteo, San Francesco, che poi diventa appunto San Francesco d'Assisi, ebbe la sua vocazione. Ne conosciamo anche l'ora e il giorno, perché appunto furono i suoi discepoli a raccontarlo. E nel 2003, oimè, oggi moriva Alberto Sordi a Roma. Pensa che questo è un evento indimenticabile per il nostro Sebastiano Barisoni. 10 anni fa, in questo giorno, al Sei Nazioni di rugby, l'Italia batteva la Scozia a casa sua 37-17, cioè una cosa di quelle che si rammenteranno per generazioni. Auguri a chi compie gli anni, cioè il sindaco di Catania Enzo Bianco e a Gigi D'Alessio. Questi sono... Che accostamento di quelli non male. Beh, sai, il povero Gigi D'Alessio ha lamentato a Sanremo di essere trattato malissimo, ma non aveva capito che tutto sommato bene così, perché in arrivo alla Rai il gelo della retribuzione, sì, delle star. Guarda, io questa cosa sono contrario, Oscar. Cioè, infatti ne abbiamo al parlato. CDA della Rai hanno messo il tetto da 240.000 euro per le star, per artisti, per i grandi conduttori. Ma cioè, certo, sembra normale che Carlo Conti con il 50% di share debba prendere 240.000 euro. Ma infatti l'esempio che hai fatto è giusto, perché quello è l'apice della programmazione annuale per la Rai. Ma io dico anche Fabio Fazio, se magari uno... No, ma per carità, lo sai che su questo c'è un'opinione diversa, diffusa, ma il problema, come hai visto e come spieghiamo ancora ai nostri ascoltatori, che il Consiglio di Amministrazione è stato praticamente obbligato alla delibera di ieri per evitare di esporsi al danno erariale della Corte dei Conti, perché c'è una legge che non si è messa a distinguere, cioè la legge, partendo dal presupposto che la RAI era ricondotta all'interno del perimetro pubblico, poi il governo ha tentato di metterla fuori, è stata riportata dentro, il solito pasticcio all'italiana. Allora, di fronte a quella legge, la Consiglio di Amministrazione assume questa delibera, però l'assume chiedendo al governo, implorando il governo di fare un atto perché vengano esentati, sì, dal ma tetto infatti, dei 240.000. Spieghiamo anche che, almeno a mio parere, così succederà, cioè interverrà o il Ministero del Tesoro o il Parlamento per depotenziare questa delibera del Consiglio di Amministrazione della RAI. Quindi Carlo Conti continuerà a guadagnare i suoi soldi, Antonella Clerici, Fabio Fazio, Insinna, eccetera. Penso e secondo me è giusto, è vero che la RAI è pubblica, dovrebbe, però... Voglio dire, dai, allora... Resta il fatto che, ripeto, finché resta pubblica e commerciale... Io sono dell'idea che cumuli il vantaggio delle risorse del canone e della mano libera del commerciale. Però, che devo dire? Prendo atto che i fessi come me restano minoranza assoluta e poi la RAI resisterà sempre. Perché tanto, come si vede, i partiti quando sono all'opposizione, cambieremo la RAI, la riforma della RAI, Leopolda, cederemo due reti e metteremo un filtro tra i partiti e il CDA. Però allora, poi diventi premier come ha fatto Renzi e fai tutt'altro. Però allora non prendi i soldi del canone, cioè ne prendi zero, o se li prendi diventi totalmente pubblica, però allora togli anche l'Auditel, per cui non te ne frega niente se fai il 2, il 3, il 7, però, il 10, il 20% di share. Ci sono modelli di paesi sia che hanno rinunciato... in buona sostanza al canone, che vivono senza canone, oppure sia che hanno rinunciato sui canali di servizio pubblico alla pubblicità. Sai che già il secondo e terzo dice come fate a chiamarle artisti? Artisti, che ne so, Carlo Conti, come lo devo chiamare? Presentatore, artista, mica è un insulto artista, no? No. Fabio Fazio è un giornalista, invece Gilente è un giornalista, la Clerici è un artista, una presentatrice, certo. Come la dobbiamo conduttrice chiamare? Ma no, conduttrice. Si chiama così, non è che... Niente. E poi c'è l'invidia sociale, vedi, milioni di euro al gioco dei pacchi per Insinna, ci scrive un ascoltatore. Se fa guadagnare dei soldi in pubblicità, in introiti, ripetiamo, che in ascolti, la parte della RAI di premiato. Mercato, chi fa più ascolti e chi porta più pubblicità. Io la leverei, però prendetene atto, cari ascoltatori, anche voi. Quanti milioni di mail ci avete mandato che eravate felici di pagare col canone in bolletta? Ce ne avete mandato tantissime. Perché il tutto poi si riduce, se critichi stai con Renzi o meno. No, dirvi la verità, non me ne frega niente di chi ci sta pro tempore. Mi limito a dire che oramai ho abbandonato le speranze che la RAI venga modificata, no? E come prendete i decreti, l'ultima raffica di decreti attuativi della PA approvati ieri dal Consiglio dei Ministri. Abbiamo passato quanti altri anni a dire adesso con la legge delega si fisseranno nuovi presupposti per il salario di merito della pubblica amministrazione. Benissimo, alla fine, siccome è cambiato tutto, come sapete, l'aria è girata, il PD ha capito di aver sbagliato, troppo duro, non so se abbia capito bene o male, che cosa succede? Che il decreto delegato delega i criteri per il salario di merito della pubblica amministrazione ai contratti. Si contratterà tutto con il sindacato. Misurate tra ciò che vi avevano detto e quanto poi succederà. Giannino ride e non perché voglia mancare di rispetto, signor ministro, io non ce l'ho con lei, lo dico anche a Rughetti, con cui abbiamo un ottimo rapporto, però misurate la differenza abissale tra ciò che promettete e ciò che fate. C'è anche, per tornare alla questione della RAI, il messaggio di un ascoltatore dice: perché 240.000 euro a Conti non bastano? Che deve fare con i soldi? Ma che non lo so cosa deve fare. C'è questo pauperismo per cui bisogna guadagnare poco, cioè poco, poi è tantissimo 240.000 euro, ma se ne può guadagnare 1 milione o 2 milioni, non lo so poi cosa farà dei soldi. Saranno problemi suoi o gestione punto, sua? Comunque a questa domanda la risposta è... la parte di mercato, cioè quella della prima serata di intrattenimento della RAI, è regolata, come si dice, di mercato, perché? Cioè perché se vai troppo sotto i conduttori te li prendono i privati concorrenti. Infatti. Questo è il punto, e quindi tu fai meno ascolto. Questo è a stringere, ohimè, comunque, la logica. Se volete chiamarci su questo 800 24 00 24, ma caro Oscar, noi dobbiamo parlare anche del terremoto. Sono passati 6 mesi del terremoto e ieri Panorama è uscito con un articolo. Io voglio rendergliene merito a Panorama, perché ci ha fatto l'apertura, secondo me giustissima. Apertura in copertina e questa inchiesta firmata non solo ma anche da Carmelo Abbate, che è con noi. Carmelo, buongiorno e grazie di essere qui con noi. Buongiorno a tutti. In questo articolo raccontate di una riunione nella quale Vasco Errani, che è il commissario per la ricostruzione, di fatto di fronte a vari sindaci, e abbiamo anche un sindaco, il sindaco di Visso in provincia di Macerata, Giuliano Pazzaglini. Buongiorno sindaco e grazie. Buongiorno di essere qui. A lei e a tutti gli ascoltatori. Insomma, Carmelo, cosa dice Vasco Errani, che oggi rilascia un'intervista al Corriere dicendo: ho detto quelle cose per stimolare una, come dire, per dare una scossa, insomma, nel senso, dai, però forza, andiamo. Ha detto: così non ce la facciamo. Questo esatto, è quello che ha detto Errani. Cosa ha detto Carmelo? Ma guarda, io direi questo: quali che siano le motivazioni, intanto la cosa importante che va assolutamente registrata è che Vasco Errani ha messo la bolla papale sulla ricostruzione che non esiste, cioè ha messo una pietra tombale sulla ricostruzione che non esiste. Quella che era la realtà, che poi la gente che vive nelle Marche, nell'Umbria, Lazio, Abruzzo conosce benissimo, perché ne vive le difficoltà ogni giorno, cioè di una ricostruzione che non è ancora partita. Ora, che questo lo dica un politico in qualche modo viene tacciato di tentativo di strumentalizzazione, che lo dica un capopopolo, qui però lo sta dicendo il massimo rappresentante del governo per la ricostruzione. Lui ha detto che non c'è ricostruzione. Ma guarda Carmelo, oggi il Corriere della Sera con Fiorenza Sarzanini, come dire, proseguendo dopo questa storia che avete lanciato, dà un dato: dei 3.000 moduli abitativi ne sono arrivati 18. Esatto. Giusto per dare un numero. Alessandro, e sì, oserei dire 18 consegnati in pompa magna con quella, lasciami dire, indegna estrazione a sorte, la sì, lotteria della Befana, cioè consegnate come se fosse un motivo di vanto, quando in realtà avresti dovuto provare vergogna. 18 casette consegnate sotto la Befana, quando i massimi rappresentanti, presidente del Consiglio, ministri, presidenti tutti delle varie istituzioni, sono andati con una mano, erano lì tra le macerie col caschetto, con una mano si asciugavano le lacrime, con l'altra sventolavano celerità, efficienza, e promettevano le casette prima dell'inverno. Promessa della politica, le casette prima dell'inverno. Oggi ci sono soltanto 18 casette abitate, ed Amatrice e Norcia, è fortunata comunque, sì, perché gli altri paesi, il comune di Visso, il sindaco ti dirà che ne ha chieste esattamente, credo 225, chiedigli sì, quante gliene sono state consegnate. Sentiamo, sindaco Giuliano Pazzaglini, Visso, 222 credo ne avete chieste, quante sono, sindaco? Allora, i numeri variano, perché se in una frazione ne vengono chieste meno di 5, la regione non le realizza. Ah. Quindi il nucleo, il numero minimo è 5. Nella mia frazione di Cupi ne servirebbero 2 e le 2 non vengono fatte. Chiedono a queste due famiglie di spostarsi nel villaggio più vicino. Questo è straordinario. Frazione. Ma cos'è burocrazia? Scusi, sindaco, ma se quelli sono in due, da noi è a mezz'ora di macchina, cose perché il mio è un territorio enorme, seppur poco abitato, è un territorio enorme, quindi la frazione più vicina è a mezz'ora di macchina d'estate, perché d'inverno, se fa di nuovo 2 metri di neve come ha fatto, ci vogliono giorni ad arrivare, e questi hanno delle aziende lì, quindi non è possibile. Ma poi se vivono lì, perché devono spostarsi, voglio dire, perché sono solo in due casette. Quando inizi male non può che continuare peggio, quindi duplicare le competenze per la gestione dell'emergenza, creando una struttura che di fatto in sostanza si va a sovrapporre a quella che è la struttura già esistente, cioè la Protezione Civile, che per ruolo istituzionale deve affrontare un'emergenza, è evidente che poi non si può andar bene, e da lì a cascata derivano tutte le assurdità che ne conseguono. Ma comunque, sindaco, quante casette sono arrivate? Zero, mi sembra. Zero. Zero. Zero. Zero. Zero. Zero, zero, cioè su 222 il totale che avete chiesto? 225, come dicevo, potrebbero essere ridotte, perché quelle due famiglie evidentemente non potrebbero spostarsi da quella frazione, e magari sarebbero costretti a ipotizzare un'altra soluzione, zero, che non sappiamo nemmeno quale potrebbe essere. Comunque il dato è questo, Carmelo, zero, uno zero tondo che fa amarezza, ma in realtà... fa sorridere, ma questo... No, poi registriamo che Errani, che nel frattempo esce anche dal PD, quindi c'è anche questo duplice motivo di imbarazzo, ieri è stato costretto a una smentita, però è una smentita non smentita, perché nella smentita dice comunque io registro il fatto che le cose non funzionano. Naturalmente posso aggiungere, adesso chiedo anche al primo Carmelo, in questi mesi chi scriviamo? Io scrivo per il Messaggero Mattino, eccetera, dicendo guardate, svegliamoci tutti noi anche dell'informazione, perché... ora avete fatto benissimo a far esplodere, però nei mesi si stavano accumulando le evidenze di questa cosa, però prima non si poteva parlarne. Allora, scusate se io mi aggiungo questa testimonianza, non si poteva parlare perché la questione era, no, beh, come governo Renzi, questa cosa funziona, Casa Italia, le grandi aspettative, dicevo, guarda, Casa Italia, non ci, vedremo, insomma, è una cosa tutt'altro da venire. Intanto quello che si vede, si tocca con mano, è esattamente quello che diceva adesso il sindaco, cioè la sovrapposizione del doppio livello, commissario straordinario e competenza rispetto a quella della Protezione Civile. Secondo me siamo stati, che dici Carmelo, anche un po' troppo buoni ad aspettare prima di tirarle fuori queste critiche, o no? Guarda, in generale penso di sì. Il panorama, lasciamelo dire, per onestà intellettuale, sarà perché il mio direttore Giorgio Mulela proprio anche, ho notato proprio un motivo personale, ha preso a cuore la questione di questa gente, ha dedicato settimane e settimane, ha fatto una copertina anche quando in qualche modo non era opportuno diciamo fare polemica, mentre c'erano i famosi eroi che scavavano a mani nude nella neve a Rigopiano. Panorama comunque aveva fatto la copertina, la lezione dell'Italia migliore all'Italia paralizzata dalla burocrazia. E andiamo atto, però ecco, adesso al di là di ogni, sì, in generale, secondo me l'informazione su questo non... sono assolutamente generale. D'accordo, io sto dicendo in generale, non do pagelle personali, perché io so di molti colleghi che portavano le cose e poi il direttore dicono però ecco, c'è un atteggiamento che oramai discrimina gli argomenti, non per il merito, questo io solo voglio dire, ma a seconda della convenienza di apparire più o meno critici, che secondo me col giornalismo vero non dovrebbe c'entrare nulla, però capisco, sono vecchio e so, caro Alessandro, che spesso i direttori devono o vogliono ragionare così. Posso, Oscar, sulla precisazione smentita di Errani di ieri che dicevi tu, se posso lasciami dire soltanto un passaggio, cioè Errani smentisce ieri in un'agenzia e parla di strumentalizzazioni politiche, ma poi tu vai a leggere merito, tu leggi però nel merito quello che dice io non ho tempo per queste cose perché devo pensare a superare la fase dell'emergenza, la fase dell'emergenza. Noi nella nostra inchiesta con questo titolo forte cosa dicevamo? Che siamo ancora nella fase dell'emergenza e che la fase della ricostruzione non è mai partita. In realtà oggi poi sul Corriere della Sera rilascia questa intervista, pagina 2, dice ho fatto questo sfogo per accelerare, ammettendo che c'è qualcosa che... Però dal sindaco, perché noi abbiamo un sindaco di Visso, ma guardate che la realtà ovviamente è in tutti i comuni colpiti, sindaco Pazzaglini, ma qual è la motivazione per cui sono arrivate zero casette? Cioè lei l'ha capita? Burocrazia o che cosa? So che il tema è le casette, però secondo me il ragionamento deve essere più ampio, cioè per capire perché non funziona questa singola fattispecie della ricostruzione bisogna capire perché non funziona tutta la ricostruzione, perché il problema è questo, come dicevo prima, quando parti male non può che continuare peggio, quindi si è costruito un insieme di disposizioni che di fatto stanno ostacolando la ricostruzione, ma anche quella semplice riguardante le esigenze immediate che potevano essere le stalle, noi adesso pensiamo alle casette, le persone non sono in mezzo alla strada, gli animali sì, con 15 gradi sotto zero erano in mezzo alle montagne, e tutto questo perché c'è un costrutto che non funziona. Innanzitutto a mio avviso si è invertito l'ordine naturale delle cose, facendo sì che ora i comuni dovrebbero addirittura fare le schede FAST, quelle di rilevazione dei danni, e l'ufficio speciale per la ricostruzione ricostruire, cosa che sta dimostrando quotidianamente di non essere in grado di fare. Allora riportiamo il tutto nell'ordine naturale, gli enti pubblici, quindi nel caso specifico i comuni, ricostruiscono il pubblico, la regione controlla e la struttura di vertice, che sia commissario o che sia capo di dipartimento e protezione civile, però per cortesia datemene uno, perché altrimenti non so con chi devo parlare, controllassero quello che stiamo facendo, e invece no, si sta invertendo tutto, si voleva introdurre un sistema rivoluzionario nelle intenzioni migliorativo di quello che era invece stato applicato nel passato, e si complicato. Sta peggiorando tutto, si è buttato via il bambino, si è buttata via l'acqua sporca e si stanno buttando via le nostre comunità, questo non è accettabile, ora che si cambi. Un ascoltatore che ci chiama, Riccardo, da Mirandola, provincia di Modena, siamo in un'altra regione, ma anche lì però Mirandola parlando del cuore del terremoto dell'Emilia del 2012. Riccardo, buongiorno. Sì, buongiorno, guardate, io chiamo per questo, perché a Mirandola ci sono in fase di trasloco centinaia di casette che erano utilizzate dai terremotati che avevamo noi. Sì. Allora, in questa Italia dei misteri sarebbe interessante sapere queste dove casette sono? In viaggio. Ma dove? Perché c'erano dei villaggi che c'erano centinaia di casette Mirandola, nei paesi limitrofi. Cioè lei dice sono spostate da lì alle zone colpite dal terremoto attuale. Ma da quanto c'è questo spostamento in atto? Aspetti, sono state tutte smontate non verso il terremoto attuale, non so dove, ma sono state tutte smontate. Ah, lei dice non è che le hanno trasferite lì, sono state smontate. Magari le avessero trasferite lì, però sarebbe interessante sapere dove sono, visto che le hanno smontate con una certa dovizia, anche con precisione, ma sono centinaia. E sono moduli che li smontavano in due giorni, quindi ritengo che in una settimana li possono rimontare. No, ma è chiaro. Come abbiamo più volte commentato anche nelle nostre trasmissioni, nei casi in cui invece si tratti di interventi singoli per cui sono possibili accordi su delega tra privati eccetera, le casette nelle stesse aree sono state consegnate già da mesi, perché tanto è vero che chi le forniva e chi le ha prese ce l'ha segnalato nel terremoto. Naturalmente laddove stiamo parlando delle sistemazioni a partire dall'identificazione dell'area in cui interviene in intera catena, protezione civile e commissario straordinario, ovviamente non si può fare così. In quel caso conta anche il fatto che invece il riutilizzo delle vecchie dismesse ci si riferisce a un grandissimo appalto Consip realizzato prima del terremoto, al quale hanno partecipato e che è stato aggiudicato anche a delle cooperative, su cui proprio ieri il Consiglio di Stato ha confermato che in realtà è molto dubbio che potessero essere ammesse a quella gara, perché hanno delle sanzioni su accordi per raggirare esattamente quel tipo di gare. Stiamo parlando di Manutan Coop. Quindi la storia italiana è lunga, dirlo al nostro ascoltatore che ci telefona sulle casette. Allora, noi nel ringraziare Carmelo Abate di Panorama e anche Quarto Grado, insomma, che certo. In TV, grazie Carmelo. Ovviamente ringraziamo anche il sindaco di Visso, Macerata, Giuliano Pazzaglini. Noi per quello che potremo fare vigileremo, nel senso che se ci sono altre inchieste, se ci sono altri appelli, ma anche ascoltatori, se volete segnalarci da quell'area particolari cose, noi siamo qua. Noi siamo qua, scriveteci anche via mail. Noi ci siamo Allora, poi andiamo in pubblicità un attimo. Tra poco parleremo di Flixbus. Sai che molti, anche quando ho letto in rassegna stampa, mi dicono: ma che è sto Flixbus? Almeno abbiamo vinto. Perché è solo una promessa, come sempre. La politica, esatto. Se si tratta di colpire per i suoi interessi, colpisce subito. Si tratta di aggiustare, promette. Ma il cosiddetto emendamento anti-Flixbus di cui parliamo è passato. Resta mille proroghe. Mi dispiace dirlo, c'è anche la firma. Mi dispiace, però io su questo sono spietato. E anche la firma, lo sai che ha la firma anche dell'Associazione delle Imprese di Trasporto, scritta Confindustria, che secondo me non capiscono bene quale sia il loro. Tra l'altro, Oscar, obiettivo. Adesso lo racconteremo. C'è anche una vicenda un po' strana, perché è di 4 senatori di conservatori riformisti. Sì. Alla Camera, io avevo 2 giorni fa Bianconi, dello stesso gruppo, ha detto: abbiamo fatto un emendamento soppressivo per sopprimerlo, perché ci siamo resi conto che era sbagliato. E la Camera non ha tenuto conto del nostro emendamento soppressivo. Quindi, di fatto, gente dello stesso partito si era reso conto che avevano sbagliato. Sì, ma insomma, però è passato tutto. C'è la firma di uno dei concorrenti che da anni si combatte contro Flixbus e che hanno anche incarichi nell'associazione di Confindustria. Comunque spieghiamo tra poco di cosa si tratta, dopo la pubblicità. State ascoltando un programma offerto da centrosoftware.com, il miglior ERP per il successo della tua impresa. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci, caro Oscar. Mi parlava di scommesse, cioè noi siamo in onda e mi parlava di scommesse. No, ma perché ieri era atteso dal Consiglio dei Ministri, oltre ai decreti delegati ancora di cui eravamo in attesa per la riforma della pubblica amministrazione, tra cui il testo del pubblico impiego, e ho fatto riferimento con ironia al fatto che salario di merito delegato ai sindacati, ha trattato con i sindacati, era atteso anche un decreto che per tutti gli italiani da anni gli si promette che arriva, e cioè l'unificazione del certificato di proprietà dell'auto con il libretto di circolazione, perché sapete, per giustificare due carrozzoni diversi, da una parte la motorizzazione civile e dall'altra l'ACI, noi abbiamo la distinzione di questi due documenti, quindi con due registri eccetera eccetera, una cosa senza senso, come ovvio, e quindi era attesa l'unificazione, e addirittura con tagli delle tante tasse e bolli che si pagano sopra. Io ho fatto una scommessa ieri, si trova traccia dicendo non avverrà, e infatti guarda caso ieri non è avvenuto, è stato tutto rinviato per la 176esima volta a metà del 2018, perché il fisco non vuole rimetterci un euro, e B, l'ACI non si tocca per via dei suoi interessi dentro. E cari italiani, queste poi sono le cose concrete che impattano sulla vita di voi tutti. Allora, parliamo di questo Flixbus, un qualcosa per cui molti ci hanno detto: ma di che cosa si tratta? Tratta di una roba che ha aggiunto 3 milioni e 200 mila clienti al trasporto all'autobus interregionale verso l'Europa e in Italia. Un operatore della mobilità che, attraverso la startup tecnologica, l'uso di un'app, le piattaforme di e-commerce, insomma, mette a sistema e permette a milioni di persone di viaggiare, che ne so, voglio andare da Milano a Berlino a 7 euro, 10 euro. Ci sono più di 1000 destinazioni in Europa garantite da Lufthansa. Una sorta, qualcuno ha detto, di Ryanair per far capire degli autobus. E per far capire, lei non è l'impresa, non è sua, lei associa in Italia decine e decine di piccole imprese di trasporto, certo, a cui consente, attraverso l'ottimizzazione, raccolta di domande e di offerta e anche di tariffe mobili a seconda della richiesta, quindi la modalità è nuova, ma siccome la sinergia che consente loro con questa rete così ampia è quella che gli dà i margini per coprire tratte che altrimenti da soli non potrebbero coprire mai, quindi ha difeso queste imprese e allargato la loro occupazione. E a prezzi ovviamente bassi. Non so se abbiamo detto molto in maniera corretta. Salutiamo Andrea Incondi, che è l'amministratore delegato di Flixbus Italia. Buongiorno Incondi e grazie di essere qui. Buongiorno a voi. Abbiamo descritto bene, insomma, in poche parole ovviamente, di cosa si tratta di Flixbus, giusto? Esattamente, sì, avete descritto bene. Ecco, e c'è un emendamento che però è stato approvato nel decreto mille proroghe, un emendamento che prevede che per le tratte interregionali insomma, le autorizzazioni vanno concesse solo alle imprese che come principale attività svolgono il trasporto su strada. Sì, sì, è come dire, loro sono un aggregatore fuori dai piedi, no? Cioè, esatto, cos'è? Vi vogliono cacciare dal mercato? Esatto, c'è stato proprio un attacco ad azienda, ma possiamo definirlo. Sì. Un tentativo proprio per fermare l'innovazione, il cambiamento, che va principalmente a danno poi di tutti questi passeggeri che noi stiamo trasportando in Italia e stiamo dando la possibilità di accedere a tantissime città, sia in Europa che in Italia, a prezzi convenienti. Mm. Devo dire che oggi la stampa, per esempio, dedica una pagina a questo, accogliendo anche lo sfogo di molti tra giovani, studenti, Chi lo usa, e soprattutto si può dire in conti che sono soprattutto i giovani quelli che sono più aperti a questo tipo di I primi destinatari del nostro servizio sono i giovani, in quanto hanno maggiore disponibilità di tempo e meno disponibilità economica, ma in generale è un servizio che si offre trasversalmente a tutti, alle famiglie, a chi vuole, diciamo, visitare città e allo stesso tempo non prendere la propria auto privata e spendere qualche soldo in meno da risparmiare per altre cose. Ci faccia degli esempi, non so, io voglio andare da Milano a Berlino, magari Berlino è un po' distante, a Milano... Milano-Monaco. Maniera costa dai 19 ai 25 euro, Milano-Roma siamo tra i 19 euro, Milano-Venezia 9 euro, Milano-Bari sempre tra i 18 e i 25 euro, insomma queste sono le tariffe medie che noi applichiamo. Sono tariffe molto basse, cioè se uno prendesse il treno spenderebbe molto di più. Prendi l'alta velocità, dai, lo sai. L'alta velocità, figurarsi. E comunque non è una questione comparata, esiste uno strumento di mercato diverso, grazie a questo il mercato si espande. Invece l'associazione di Confindustria, ci ripeto, questa è la radio di Confindustria, quindi io ci torno sopra apposta su questo. Care associazioni di Confindustria, quella che riunisce i trasportatori interregionali, non la facciamo lunga, il traffico interregionale su gomma non era liberalizzato fino al 2013, quindi siamo all'interno di un processo di liberalizzazione a tappe, per così dire. Però possibile mai che voi, associazioni di Confindustria, interpretate il vostro mestiere come difesa del recinto che c'è già invece che a favore dell'espansione del mercato, visto che questo è un segmento che si espande in tutti i paesi europei grazie ad aziende come Flixbus invece di restare chiuso? Domanda, lo dico perché, caro Alessandro, è stata quell'associazione che già si era rivolta all'autorità per la concorrenza e l'autorità per la concorrenza aveva detto chiaro: no, Flixbus non pratica nessuna concorrenza in proprio sui prezzi. Allora, se l'impresa privata si mette a fare il mestiere opposto di quello che dovrebbe fare, io mi limito a dire: lo so, questa è la Confindustria, ma c'è qualcosa che non va. Io vorrei chiedere a Incondi qual è il segreto, se ce lo spiega in poche parole, del riuscire ad abbinare prezzi molto competitivi a una qualità che, devo dire, quelli che hanno usato Flixbus dice è una qualità ottima, nel senso che uno non è che può pensare prezzo basso, oddio, allora la sicurezza, la qualità è incidenti bassa. No, è assolutamente il contrario. Qual è il segreto, Incondi? Il segreto è che, prima di tutto, noi applichiamo, come diceva bene Oscar, delle prezzi dinamici che crescono attraverso degli algoritmi e che garantiscono che seguono il comportamento d'acquisto del consumatore, tipico del consumatore. Quindi noi siamo molto bravi a riempire gli autobus, a renderli appunto sostenibili, ma allo stesso tempo garantiamo attraverso i nostri partner, che sono aziende appunto di autobus italiane, che la qualità e gli standard siano sempre rispettati. Tra questi appunto noi obblighiamo le nostre aziende, diciamo, ad utilizzare autobus che non siano immatricolati oltre 3 anni ad esempio, o su linee notturne ad esempio la compresenza di 2 autisti per una maggiore sicurezza. Questo al di là dei minimi di legge. Ma guardi, io adesso arrivano messaggi, l'ho usato 3 volte, è ottimo, lo uso spesso da Verona Canazei, ci scrive per esempio Giulio da Verona, cioè perché uno può scegliere la propria tratta, ovviamente devono essere servite dal sistema, dalla app. E poi crearsi il proprio viaggio alla tariffa comune. La domanda è: ma adesso, visto che ci dicevano che il bicameralismo perfetto che ha vinto, no? Bicameralismo perfetto serviva proprio per correggere gli errori sulle leggi. Allora, una volta riconosciuto da parte del governo che questo emendamento con le impronte digitali dell'impresa concorrente che non voleva Flixbus tra i piedi si serviva della politica per farlo, invece non lo hanno corretto, hanno fatto la promessa. Alessandro, come vedi, il bicameralismo perfetto non è quello che dicevano. Che succede a Flixbus? Ma come ci si fa a fidare adesso? Domanda ad Incondi. Allora, prima di tutto siamo soddisfatti che ci sono stati degli ordini del giorno che sono stati accolti dal governo. Questo comunque dà un segnale importante che c'è voglia di cambiare. Naturalmente noi continueremo a verificare che l'impegno si poi traduca in un'azione concreta quanto prima. No, anche perché nel frattempo la legge entra in vigore, vi ha dato un termine entro il quale se non vi adeguate chi ha mandato avanti quegli emendamenti dirà che bisogna sanzionarvi, Assolutamente, quindi noi stiamo già coinvolgendo tutti i nostri legali per cercare appunto soluzioni, per cercare di essere in linea con la normativa anche se cambiata e cercare di continuare a operare e dare tutti la possibilità di continuare a viaggiare in Italia. Aggiungo che proprio ieri c'è stata anche una nota di Nencini, che proprio, quindi ancora il governo che si esprime, che proprio la volontà e l'impegno a di continuare a cambiare. Vice ministro dei trasporti. No, ma guardi, tra l'altro Incondi, io ne ho parlato qualche giorno fa, avevamo Maurizio Bianconi dello stesso gruppo dei senatori che hanno proposto il decreto e lui alla Camera ha detto noi volevamo sopprimerlo perché ci siamo resi conto proprio che era una cosa sbagliata, ma non ce l'abbiamo fatta. Per cui c'è anche un emendamento nato da un gruppo di parlamentari che poi volevano toglierlo ed è passato. Succede anche questo in Italia. Ma infatti una delle tre mozioni è di Capezzone, stiamo sempre parlando dello stesso questa che corregge. Che voleva correggere. Ma perché, ripeto, la politica è molto porosa alle lettere imbucate. Forse si sono resi conto. Comunque Incondi, ci teniamo in contatto, come si suol dire, visto che noi seguiamo sempre queste vicende. Flixbus, come lo si raggiunge? Si può comprare punti biglietti sul nostro sito internet o nelle nostre app, o comunque abbiamo 4.000 agenzie distribuite in Italia dove poter comprare biglietti. Il sito com'è? Flixbus.it? Flixbus.it, molto semplice. Semplicissimo, Flixbus.it. Va bene, grazie ad Andrea Incondi, amministratore delegato di Flixbus. Speriamo che un Italia, giorno o l'altro anche su Uber passi qualcosa di simile. Esatto. Ma la controffensiva anche lì è pesantissima. Insomma, sono tematiche. Leggo sui social... Che sarebbe una specie di la barbarie, lo sfruttamento, le multinazionali, il capitalismo. Vabbè, viva il regresso italiano. Dai, è sabato quasi per tutti te. In carrozzella. È venerdì per me, ci ritroviamo lunedì. Ma tu ce l'hai il calesse qua sotto? No. Il calesse, vado che mi aspetta il cocchiere. Esatto. andiamo a bere un caffè. Ciao. Anche sabato, urliamolo insieme Oscar. C'è anche sabato, c'è anche sabato.